Vecchio è colui che ha fretta di mostrare al mondo un'altra faccia di quella che Dio gli ha donato, che nasconde le rughe dal viso. Vecchio che si tinge i capelli di un colore che scappano anche i conigli. Vecchio che non crede alla fine e si crede di essere immortale. Vecchio è colui che non ama. Vecchio è colui che non pena. Vecchio è già morto di dentro e vorrebbe imprigionare tutto il tempo. Ricorda, perché il vecchio ricorda, ma dimentica, perché ha la memoria corta. Chi della vecchiaia ne teme il volere, ha già un piede nella fossa e anche il suo cuore. Vecchio ti dice: profitta della vita, perché lui è già da un pezzo che ha la ruota bucata. Vecchio si lamenta perché giovinezza l'abbandona. Vecchio non ha conosciuto né conosce la sua storia. Vecchio rifiuta di sentirsi in disparte. Paga, senza indugio paga, per avere la sua parte. Vive come un ventenne, con un cuore che non respira, tra Viagra e colle varie colleziona buchi nella memoria. Vecchio è colui che non ama. Vecchio è colui che non pena. Vecchio è già morto dentro e vorrebbe imprigionare tutto il tempo. Ricorda, perché il vecchio ricorda, ma dimentica, perché ha la memoria corta. Chi della vecchiaia ne teme nella fossa e anche il suo cuore. Vecchio è chi non osa restare nelle praterie, nel suo giardino invecchiare e lasciarsi dalle nuvole inondare. Dall'universo cullare, abbracciare. Vecchio è un bugiardo che non ha più niente da offrire. Vorrebbe vendere la sua anima, ma